Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori e ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. E ritroviamo oltre a te un tema che purtroppo abbiamo già trattato, che è quello del gioco d'azzardo, in particolare in chiave giovanile. Già avevamo lanciato l'allarme, la legislazione, pur l'ultima messa in atto, che dice nelle pubblicità di specificare esplicitamente che il gioco è vietato ai minorenni. Sì, cose buone, ma evidentemente non basta, anche perché, Carlo, ci sono alcuni dati preoccupanti. Sì, come hai detto te, cose buone si stanno cominciando a fare, ma siamo ancora molto lontani. E questa volta a dare un dato preoccupante su quello che è il fenomeno del gioco d'azzardo, rivolto questa volta non agli adulti ma ai bambini e agli adolescenti, è stata un'indagine che è stata presentata pochi giorni fa alle Camere e che è stata organizzata da Telefono Azzurro ed Auispes. E cosa ne esce? Ne esce un quadro veramente molto sconfortante, perché Mirko, innanzitutto hanno un po' cercato di individuare quelli che sono i bambini interessati al fenomeno di età compresa dai 7 agli 11 anni e quelli che sono un po' gli adolescenti, che praticamente dai 12 fino a circa 18 anni, e ne esce veramente che il gioco d'azzardo non è sconosciuto né per una categoria né per l'altra, e peggio ancora, addirittura risulta anche praticato. E giocano con, non è tanto il gioco d'azzardo in sé, perché anche i computer magari offrono il gioco del poker, che ne so, il problema è che qui si gioca con soldi veri. Guarda Mirko, voglio darti qualche dato così ci rendiamo conto anche del fenomeno, e dopo a parte andiamo a ragionare su quello che è anche il consumo dell'alcol a livello proprio di bambini, sì, e di adolescenti, che è riguardato sempre questa indagine. Cos'è il risultato? Che per quanto riguarda i bambini di età dai 7 agli 11 anni, praticamente uno su quattro è sostanzialmente coinvolto dal gioco. Gioco che chiaramente per i bambini riguarda fondamentalmente i gratta e vinci, le lotterie e i bingo. E sono, come ti ho detto, fenomeni che a volte risultano anche con la complicità degli adulti, e comunque i numeri, come ti ho detto, sono abbastanza rilevanti, perché comunque sta diffondendosi un fenomeno che magari molte persone non credevano che potesse essere coinvolto o rivolto ai bambini. Mentre per quanto riguarda gli adolescenti, risulta che addirittura le percentuali possono salire fino al 27% per quanto riguarda il gioco online, e addirittura uno su cinque dei giocatori online è attratto dalle scommesse sportive e sempre più spesso giocano soldi, e addirittura ci sono punte che arrivano al 44,6% fino al 49% per quanto riguarda la percentuale di adolescenti che insomma in qualche maniera hanno giocato. Chiaramente, come detto, se per i più piccoli risultano più accessibili queste forme di gratta e vinci e quant'altro, per gli adolescenti c'è sì il poker online, ma ci sono anche le slot machine, tant'è che il 21,5% dei campioni ha dichiarato proprio di utilizzare e frequentare le slot machine fondamentalmente. Eh sì, qui è stato ipotizzato anche un limite di distanza rispetto alle scuole, ma qui credo che non, cioè, il limite c'entri poco, c'entra proprio magari l'abitudine, o come dicevi prima anche il cattivo esempio degli adulti, magari in famiglia, che ogni tanto così giocano o prendono il gratta e vinci o magari stanno ore e ore dentro una sala per tentare chissà quale fortuna, però spendendo a loro volta delle fortune. Beh, è chiaro che le persone devono capire che i meccanismi delle macchinette non sono fatte per darti i soldi a te, ma sono fatti per guadagnare, e in questo caso chi guadagna non è solo il gestore, ma soprattutto il monopolio dello Stato che le regolamenta. Poi per quanto riguarda il fenomeno dei giochi d'azzardo, dobbiamo continuare a ricordare che è un fenomeno che reca dipendenza, e che quindi è impensabile, quando si comincia, poter neanche uscire con una certa tranquillità o con una certa leggerezza. È un po' come il discorso del fumo: quando uno comincia a fumare è molto difficile che da solo riesce a poter smettere, anche se ci sono dei casi. Però in questo senso, se da un lato almeno si comincia a sensibilizzare l'opinione su quello che sono i rischi, e si sta anche ragionando su quelli che sono appunto le situazioni più pericolose rispetto ad altre legate a questo fenomeno, cosa che fino a pochi mesi fa nessuno aveva mai accennato, già in questo senso stiamo facendo dei passetti. Poi è chiaro che quelli che sono i veri interventi efficaci per poter contrastare questo fenomeno in realtà non ci sono, ma noi dobbiamo anche sapere che alla fine c'è anche un interesse per non contrastare in maniera effettiva questo fenomeno, e purtroppo bisogna dirlo, in un momento di grossa crisi come quella che il paese sta attraversando, in un momento di false illusioni come quello che può dare una giocata o il tentativo di una fortuna che possa capitare in un momento disperato, chiaramente può alimentare un sistema che dopo la fine ci vede solamente coinvolgere nell'occhio di un ciclone. Eh sì, perché il vizio poi ti porta in un vortice dal quale è difficile uscire se poi non si viene aiutati. Il gioco online, il gioco sempre più diffuso, magari anche in tutte le sue forme un po' subdole, dicevi che anche l'alcol coinvolge sempre più ragazzi e ragazzini. Anche i dati sull'alcol certamente non sono incoraggianti, e speriamo che in questo senso possiamo dare anche un messaggio ai genitori, che possono fare un po' più da sorveglianti nei confronti dei ragazzi, soprattutto perché, come ti ho detto, l'abuso dell'alcol è anche un fenomeno che va un po' a pari passo rispetto a quello che è il fenomeno del gioco d'azzardo. I dati cosa dicono? Il 64% dei ragazzi dai 12-18 anni dichiara di bere alcol, e addirittura c'è un'abitudine per il 10,6% di questi ragazzi verso 18 anni che ne fa un uso quasi quotidiano. Quindi è un fenomeno veramente molto preoccupante, anche perché stiamo parlando di una fascia d'età in cui l'organismo si sta sviluppando, e sappiamo che una volta che l'organismo viene danneggiato difficilmente si può recuperare. Addirittura il 35% dei ragazzi, solo il 35% dei ragazzi ha affermato di non essere interessato all'alcol, e i più giovani, quelli dai 12 ai 15 anni, ha dichiarato di averlo di aver consumato alcol già nel periodo della terza media, quindi parliamo di età intorno ai 13 anni. Ecco, poi bisogna vedere anche quali sono le quantità, ovviamente, però certo a 12 anni, a 13 anni bere alcol certamente non fa bene alla salute, anche perché apre strade certamente pericolose. Anche perché non è detto, scusa Carlo, non è detto che sia sempre e solo vino, che magari un bicchiere può essere anche buono. Credo e temo si tratti anche di altri tipi di alcolici. Guarda, amico, innanzitutto io ti dico il dato che a me mi ha fatto più paura quando ho letto questa indagine: è stato come il 21% dei protagonisti ha dichiarato di aver avuto 11 anni quando ha cominciato a assaggiare i primi aperitivi, perché poi sostanzialmente non è il vino a tavola, ma è l'aperitivo fuori pasto, e questo risulta ancora più deleterio per un giovane, perché un aperitivo, uno spritz, tanto per far capire meglio agli ascoltatori di cosa parliamo, sta diventando sempre un'abitudine più in voga per quanto riguarda i ragazzi e gli adolescenti. Oggi gli adolescenti, se non si trovano in bar e non bevono un aperitivo, non sanno neanche cosa fare, perché ordinare un succo di frutta di fronte a quattro che bevono un aperitivo rischi veramente di passare anche, tra virgolette, da sfigato, che è un termine che è sempre più in voga a questa età qua. Di alcol allora magari torneremo a parlare in un'altra occasione, visto che il tempo per oggi si è chiuso. Grazie allora all'ADICO, associazione difesa consumatori.it, per ulteriori informazioni. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.